sono molti che la fanno con la pancetta affumicata. Vuole fatto il guanciale perché è più dolce il guanciale. Ma a me mi piace sentire sapore della affumicata, capito? Lo so. Poi bisogna sapere un trucco ma fa bene la pancetta o il guanciale. Sì, ci sono le varianti. Puoi soffriggerlo anche con la cipolla, però prima la cipolla, prima di metterlo la tugli. Lo puoi soffriggere con la cipolla per dare il sapore, però è una variante, non è la ricetta giusta, è una variante. No, prima no, di Zioda. Ti sto dicendo come la faccio io, bella cremosa, ma di lusso veramente. Esce. Guarda, io l'ho fatta con la cipolla, molto buona, però è una variante, perché ho parlato con un amico mio che fa il cuoco alle Bisonis e mi ha detto sì, già è buona, però è una variante, non è della ricetta giusta. La ricetta giusta dice che ci vuole guanciale, uova, formaggio, eccetera eccetera, non ce n'è di cipolla. Infatti no, quindi no, io come l'ho fatta adesso sono da un bel po' che non la faccio. Lo so cosa voglio imparare a fare, la pasta al forno non l'ho mai fatta, so come si fa, ma la vengono già fatta, capito, quasi vale, mi do una teglia e te la metti in forno a scaldare ed è buonissima. Sì, già lo so, ma è l'ugoso, la svifazione è andurava in due. Mamma faceva tutto, anche la besciamella faceva lì. Lo so. Io è che non l'ho mai, non mi sono mai messo a farla. E mi piace a macchinini. Era pazia buona, era la moglie della buonanima di mio cugino, di Marco. Ma era pazia così buona. Chi si abbassa al forno. Il ragù lo so fare bene. Però non mi sono mai messo a farla. Se mi pongo mi ci vede. Poi faccio un forno io, i nomi. A voglia a far passare il forno, vi sta zonagnone Trento, un pochino. Basta metterti in alta lì, se poi c'è qualche dubbio, vai su internet e scrivi come si fa la passare il forno e te lo dicono. Ehi, già lo so come si fa. L'altro giorno l'ha fatta un amico e me ne ha dato un pezzo di passare il forno ed era buona, buonissima. Allora, sì, mamma addirittura prendeva, allora, vendevano la pasta, la vendevano dura, la dovevi bollire, poi la metteva sull'asciugapiatti e l'asciugava, e faceva, ma non la faceva fine, non la faceva bella grossa, bella assa. Infatti, già ci bocco buona. Solo che cavolo, io non ne posso mangiare e poi io non ho mai giocato mai. La cosa, se mi pongo a mangiare la pasta al forno mi salta la glicemia a mille. E una volta non fa niente, Natali. Una volta, a me me l'ha detto il mio dottore, una volta si può fare la settimana, poi il resto della settimana Ramadan. Infatti, a me mi lo dice pure un concetto, una volta lo puoi fare, già non ti fa nulla. Ma io non ne posso bagnissu, se non mangio manco bani, quando vengo qui un po' gachita, che a me non massa mai a sabocchi. Non mangio il pane per non salirmi, figurati, e quando lo mangio ne mangio mi dai e senza la mollica, chi ne ha capo sempre, chi sa ne ha giù sempre capata la verità, pure quando noi ero diabetico lo quadrivo, a chi la mollica non mi piace brutto, mi piace vedo croccante, rubane. Ma io l'altro giorno per dire c'era la caponata a casa e l'ha fatta e era un bel buona e il padre ce l'ho bagnato nel sugo, e cosa devo fare? No, devo prendere gusto quando mangiarlo, ma lo mangio una volta nei danti, tanto non ti fa nulla. Poi ho misurato la glicemia, ce l'avevo 183 mi pare. Vedi, a me non mazza così, a chi io non la posso alzare. Si mazza proprio a 180 come ti si dice in due, già un beata, ma a me. ma stamattina ce l'avevano fatta a 5 natalizie. Secondo quello che mangio io ho capito che se io riesco a fare la dieta non devo più dare più lezioni né pastiglie, niente, perché a me mi chiede se no anche a 59 l'ho avuta, capito? Ehi, già lo so, io ce l'avevo a 92 stamattina. Io 95. Diciamo che è ballerina la mia, capito? Però ballerina sempre dipende da me il fatto che sia ballerina, perché se mangi di più normale che passa. E infatti se mangi o roba che non devi mangiare, allora dazza. Ma Claudio, sì, e ancora deve essere o andato nel canale loro oppure sta facendo roba là. E poco fa lo stava chiamando Gianfranco. E comunque vedi, io sono addetto e tu mi sei fatto vedere di mangiare, mi sei fatto vedere la gara. Sì, cosa? Non hanno aggiunto niente, che ti ha aggiunto solo che mi piace abbassare il forno e buco, però che non ho mai fatto. E se no il ragù non mi ci pomo. E se no la peperonata, io faccio tutto. Faccio. Se no la butanesca, cosa hai non fatto? Idem, anch'io. Io ho imparato a cucinare da quando avevo 18 anni. Mamma mi diceva, figlio mi mettiti a cucinare, impara, guarda come fa mamma. Quando poi ti servirà, ti renderà utile, perché magari un giorno tua moglie non può cucinare perché sta male o cose. Almeno tu sai cucinare, lo fai tu la roba. E così oggi ho imparato a fare il sugo, a fare minestrone, a fare tutto quanto. Spezzatino, dimmi tu di sì, e se no lo spezzatino con patate non mi esce buono. Concetta c'ha pandura America. A chi ando cucino io sono i ringhi di Diddi. E guarda, ho fatto l'altro giorno lo spezzatino col pollo, ma non so quante lavoro. Lo so, anche a me mi esce buono. La drippa. Cos'è non oggi cucinato? E messi di russo a vero, la cosa. E anche a me. Io la pippa quella bianca la compro, ma non ha il sapore di quella che mi dava il macellaio. Quando non avevo voglia di pulire il macellaio mi dava, mi diceva già la lupa, se ti faccio mi tocca la pazzia, mi dispiace. No, vabbè, ma la sporca, la portavo a casa, l'uviago per pulirla con l'acqua calda, eccetera. La facevo bianca bianca e poi quando la cucinavo proprio in Natale c'era il sapore così buono. E infatti. A me mi ci vuole un'arma stessa, la giubbata è uscita come anzi la pazzia mattino, mi. Che io la giumagnata che c'è di mattino ed è uscita così, uguale. Oh, yeah. Oh, signore, va a me tocca di montarmi lo scillofono, dai non. Cazzo, va, me la catturetta, non riesco a trovare una scatoletta per mettercelo dentro. Natali, cosa vuoi sì? Non la sono più il cellulare, come? Non accende il cellulare, Elena. Se non sta accendendo non li accende più. Mamma mia, che non sia come se successo al mio, lo Samsung. Cazzo non vuoi nuvera. Cazzo una manzana, un manzano me ne so come sardo. L'ha già acceso, cioè, ha già dentato la sindina, non accendia più, non vera Cristo. Mi si è bruciata la scheda madre perché l'ho portato da Luca a vedere se era la batteria, invece no, era proprio la scheda madre, mala sorte. Magari si è scaricato del tutto e adesso è in panico, aspetta un attimo. Sì. Nessuna parte, non mi sentivo bene oggi e non sono uscito da nessuna parte proprio. Diciamo che io non sono uscito lo stesso perché non ce la facevo, sarei dovuto andare a farmi un po' di spesa, ma diciamo volevo comprare arancia, roba del genere, mi piace la mele, ancora mangio la mele e via. E ne sono uscito, ho detto un po' di mandronia mi ha preso perché quando esco mi fa male, poi. Chi suè, che tieni che ti posso chiamare? Io perché quando sforzo camminando mi viene quel dolore allucinante. Natali, ma te Loppo te lo fa questa cosa qua, che quando telefoni scade la linea, cade la linea, oppure si sente robotizzato o roba del genere? No, che cade la linea già me lo fa. Perché però è colpa del ponte, no? Mi dico libareti spessemi. Il segnale non è che arrivi tanto bene. L'altro giorno stavo cercando di telefonare con mio fratello, mi sono dovuto affacciare. No, a me me lo sta facendo, come mi faceva l'altro telefono mi sta facendo anche questo. Mi sento robotizzato, cade la linea, tutti mi dicono cose, il suo telefono si vuole più, ma se l'ho comprato nuovo un mese fa. E può essere colpa del ponte, non è detto che sia il telefono, no? Ma infatti l'ho lasciato anche con altri due telefoni, quindi non è quello. Prima prendeva bene a casa tranquillamente, hanno avuto questo 5G, quei ripetitori del 5G secondo me sono quelli che disturbano. No, stanno andando, stanno, cioè quelli a 4G li stanno abbandonando i punti, è per quello che non gli stanno facendo manutenzione, deve essere, e funzionano i mali. Arrivi Bogusignari, quello mio prima abbigliava, non cadeva mai la linea. Qua dentro. Allora se ti vedi secondo come è la situazione mi tocca affacciarmi, se no mi cade la linea. Prima come mai non cadeva la linea, adesso cade. Anche a me lo fa. Tutti mi dicono cosa, è anche antipatico, mi ha solo detto, ma cambiatelo questo telefono, ogni volta che ti chiamo scade 5-6 volte la linea, devo stare a richiamarti ogni volta, cambiatelo, vedi che il telefono buono. E se non ti mandato che ho preso dopo, ma ho preso quello buono, quello che c'ha 3 telecamere, eccetera, eccetera, quello più, diciamo, quello più all'avanguardia che c'era, capito? Lo so. E poi basta, quando tu esci te lo fa lo stesso, se esci fuori. Quindi adesso si è acceso l'attalì, l'ho messo in carica e si è acceso, sicuramente era la carica che era scarica del tutto. Di lì lasciarlo in carica 12 ore, col mio sì la batteria si riprende, adesso che era scarico del tutto. No, ha detto che poco fa l'ha staccato dalla ricarica, che era in carica già. Beh, non so che mi spiego. Comunque io ho visto che fuori non me lo fa a cadere dalla linea. Quindi il ponte scappa. Cioè se il segnale del telefono non riesce a entrare qua e c'è poco segnale praticamente, quindi cade per quello la linea. A chi fu la nome Ruvazzi, se esco fuori non mi cade la linea, perché arriva più forte il ponte, capito? Tu per essere sicuro che non è il telefono devi guardare quando sei fuori, se fuori non te lo fa, ha fatto il robot e la... e che ti cade la linea, vuol dire il telefono non c'ha nulla. E a chi ti vedrai tu arrivi a Bogusignari, vuol dire. Natali non è nel telefono, prima c'avevo un Vodafone, l'ho cambiato, ho messo l'Eca Mobile, non è nel telefono, non è la ditta telefonica, niente. Secondo me qualcosa che disturba dentro casa, a me mi hanno consigliato di chiamare, se c'è la notizia e vanno con lo strumento a vedere se c'è qualche disturbo. Ma io dico che il ponte che ti manda poco segnale ti fa quel disturbo lì. A me pure qua, qui dentro, a me mi manca la linea molte volte, qua. A mia moglie lo stesso, quindi non può nascere tutti e due i telefoni. Lui quando sono fuori come mai non mi cade? Vuol dire che è il ponte che c'è poco segnale qua. Può darsi. Io ho notato, anche quando sono in macchina non mi cade mai la linea. Adesso l'ho qua dentro. Dile, ma anche a me. E allora noi il telefono. Rubonti andando in Oramara. se sono fuori, se sono in macchina non mi cade, se sono a casa cade 2, 3 volte, 4 volte, anche 5. Come sono da ieri, eravamo al telefono, la mamma una volta non ci vedevamo, mi stava raccontando delle cose, ma mi cadeva sempre la linea, cioè mi chiamate 2 o 3 volte, capito? Molte volte cazzo si interrompe la telefonata, addirittura io sento il corrispondente però a me non mi sentono. È proprio quando sei qui dentro che te lo fa. Esatto, ti si mette in pausa da solo, se tu guardi la pausa, li primi, poi riesci a sentirli, ma si mette in pausa da solo, non capisco perché. E a me lui, boh. Ma cosa vuoi che ti dica? Ma infatti, dai. Oh, ma sta piovendo. Ma non lo so, io non sento nulla. L'ascensore farà d'un fulmine vicino di via sé, finché la corrente si è abbassata. Cappa. Oh, via. Adesso si è ripreso il telefono. Boh, non ha cliccato bene il pulsante, è diventato di macca, cazzo, si stava esaurendo. E qua c'è il doppio telefono, mamma mia. E infatti. Ma che vuoi che ti dica? Questi telefoni non ha mai, ci hanno condizionato in una maniera tale che l'altro giorno sono andato dal medico e ho contato su 10 persone che c'erano, ce n'erano 9 col telefono acceso. E a me lo dici. A me, per esempio, mi dà fastidio il telefono, non ci credi tu. Io non lo so in chi mi giugendi, io mai ci gioco. Io vi raggio solo una telefonata. A giocare no, vabbè, io canto anche. Io canto e poi guardo TikTok, Facebook, Instagram, insomma tutti i social network. No, io lo uso solo per telefonare. Ma giù butto addirittura WhatsApp perché mi mandano i messaggi quelli dell'associazione, no? E me l'ho messo sul computer per quello, poi mi hanno portato un telefono. No, ma io il computer poco lo sto usando, boh. C'è un fermo, non lo sto più usando, c'è il telefono e lavoro col telefono. No, io me l'ho messo nel computer WhatsApp proprio per quello, in modo che non ne uso il telefono. Che concetto è stato sempre un telefono in mano, mamma mia. Le donne sono così, ma anche i maschi adesso sono condizionati da queste cose tecnologiche. Io invece non ci gioco assolutamente. Se mi devo guardare Facebook me lo guardo, chi non ventro mai ne manco, me lo guardo dal computer. Io mi guardo YouTube dal computer stesso, ma no, nel telefono nulla proprio. No, io tutto dal telefono faccio. Prima si accendeva il computer e ricevevo, ma siccome adesso canta, era nella cameretta, quindi non voglio disturbarla, ecco, sta cantando e non ne uso, uso il telefonino lo stesso per me. E vabbè, hai abituato così, io no, mi concerta è così. Ad esempio, un telefono in mano, mamma mia, con un tablet. Non ha tablet, quando gliel'avevo comprato l'avevo pagato 350 euro, gliel'avevo regalato per il compleanno, mamma mia, della Samsung. E quello lì funziona anche da telefono perché c'ha la scheda telefonica dentro, no? Della TIM. Quella lì, se se lo porta in giro, può giocare anche fuori, perché c'ha i dati della scheda telefonica. E virà ancora il suo tablet, che si può raggiungare. Si è comprato da poco la custodia nuova, che era tutta aggribata questa custodia, chi va via. E fa bene a usarlo, se ce l'hai fa bene a usarlo. Ehi, a gioca col tablet, cazzo, ma tu la devi vedere. Cazzo. Ne ha due di tablet. Lo tablet è il computer grande, che costa da 19. che vuoi che ti dica? Ma non ne usa di più il telefonino. No, lì usa il tablet e il telefonino, concetto. Il tablet lo usa a me per giocare. Sì, ci abbiamo anche Alexa. Ehi, già ce l'è, per carità. Le fa vedere due parole in tedesco, che non posso dirlo qua. Ma c'è la più facile da avere risate, la tela. Mica. Vedi, TikTok non l'ho mai visto, dice che ci va Luca su TikTok, non so cosa avanza. Sì, sì, l'ho vista Luca. E fa le live, dai, entra un'altra gente, parla, no, niente di che. No, non l'ho mai visto TikTok. Poi non so manco se c'è per il computer. Non è niente di coso, però ci sono le live che fanno anche le donne e ci sono, vabbè, di tutti i tipi di donne, hai capito? Ma per il computer c'è? No, mi pare che lo devi fare solo al telefonino. Allora niente TikTok. Ma ti diverti però. Tu ti comunica tutte le cose le nuove cose che sono uscite, eccetera, eccetera, tutte le cose telegiornali, c'è tutto. Ho capito, non l'ho mai visto, la verità. No, io sempre c'entro. Anche la notte entro per distrarmi un po', perché sennò se mi colico presso la taglia da voi di due ore entrano ancora di più. Infatti. C'è Curto che mi sta guardando, pure a rido. E cosa vuoi, magna? No, mi guarda solo e a vedere cosa sto dicendo. E lui è il tuffo di babbo, vero? Che sei il tuffo di babbo tu. Mi sta guardando un fisso che è. Il riso la mangia, Natale? Sì, sì, il riso sì la mangia. E anche te se lo mangia. Io lo faccio però solo quando è a dissenteria. E rimasti bene l'urriso. Sì, sì, già lo mangia anche lui. Ma non entra nessuno stasera, Sono una banda di morti, sono. E io mi sono accorto a Bisamini, perché sono sdraiato, però mi sta facendo male la gamba. E a volte a stare nella stessa posizione, anche se sei sdraiato, ti fa male. È una poltrona lì, non ce l'hai, a metterti seduto a vedere se stai meglio. Sì, è una poltrona anche quella che ti fa allungare i piedi, che si apre, si abbassa, eccetera. È come quella che avevo comprato a mia mamma. Sì, l'avevo comprata io per papà e quando c'era papà mi ha detto comprami una poltrona e l'abbiamo presa. Ed è rimasta qua, da. E lui la usava perché si sdraiava, capito? E si abbassava la spalliera e si sdraiava, stava bene così con i piedi allungati. Ehi, con un motorino, no, va via, era dalle comando e si rabuniva come ti volia. No, la mia non c'è motorino, la mia tu basta che con le spalle ti spingi e si abbassa. No, quella di mamma era col telecomando, c'aveva il motorino, puro fallito si va via. Vabbè, no, questa qui non è a motorino, io male non le dico, basta che tu ti attacchi alle manopole, che c'ha le maniglie, rappoggi la braccia, là. E spingi con la schiena e scende. No, io pensavo che era col motorino come quella di mamma. Quella lì era bella, E poi tra l'altro quando era piccolino Tyson aveva fatto un buco. L'ha grattata e l'ha bucata. Chiesto di grattarla pure Curto. Quello di grattare c'era anche lui, ma era assolto. Anche a tutti, grazie. Anche in strada, molte volte si mette a graffiare lui, perché per le unghie deve essere, che lo fanno. loro lo fanno anche nella sabbia, al mare, si fanno il fosso per coricarsi, e sono abituati così, i cani fanno così, si fanno il fosso per sentire il fresco. Può darsi. Chi ci fa di così, Matteo? Io un tra. Guarda, a me non me ne ha mai fatto peso, però i tappeti di grassa. Adesso ultimamente mi non ne faccio da più. Io la sapiglia di Luigi, vuol dire. Ma dov'è il pupo di babbo? E se no non è bello quando mangia tutto, no? Io gli metto il mangiare nella ciotola. Quando si mangia tutto, viene vicino a me, si siede e mi guarda, e allora io lo so che vivo un premio, a chi l'ha già abituato così, e si sento a davvero, lui mi guarda per un po', se io non glielo do allora si mette a bagliare. Sì, sono intelligenti, non è che li manca solo la balaura e basta. E se no, una volta non mi ha stupito, che gli mancava l'acqua, poverino, Concetta si era dimenticata di mettergli l'acqua, e ci aveva sette. Io sono andato al frigo a pigliarmi l'acqua, mi ne è incardinato alla impulla, dico, cazzo, qui ci faccio i dirugani, sono andato e non vera e va vero. A vederla ci si va, ne comprendi? Sì, si fa capire, certo. Anche Taso, per dire, se di arriva mi chiama, mi porta alla porta e lo devo portare giù, anche se alle 4 di mattina lo devo portare, l'ho già fatto. In mezzo alle cinghiali, i gatti tutti bello di cinghiali, camminelli, in piazza della Meridiana mi ci sono le ghiande. Cazzo, vanno ogni notte. Anche il cinghiale mangia chissù, mangia le ghiande il cinghiale. E allora? Le ghiande gli piacciono, è la garruba che vede dire a casa, si mangiano. Ah, Razzucci, lo cinghiale è una fragosa. Se vanno dove ci sono i cassonetti per cercare da mangiare, si sono abituati addirittura che l'uomo non gli fa più paura, boh. E adesso lo attaccano l'uomo, secondo come si fanno rispettare. E beh, si sta vicini, sì, è logico, no? Però non è che scappano appena vedono l'uomo, capito? Non sono più selvatici come erano prima. Allora, io e mia sorella è andata alla sirena con delle amiche a farsi un giro e c'erano gli cinghiali, noi stavamo mangiando un panino, la amica le ha detto dai, un peso, che secca che si. Se stanno noi per non dare, la mamma paura, non ti fanno niente, dai, non cazzo da sirumarino, la musica di lui era truccato. Aspetta lì. Ehi, sono qui. Hai capito? Lì è un grido, è pericoloso, glielo doveva buttare in terra magari, e lui se lo mangiava, e Davide ha dato, se io molte volte gliela do così la roba, è curto mi morsica, ma non è colpa sua. No, io la metto nel palmo della mano e lui si gira per non farmi male, si gira la nella prende di latte. Così si sì, va bene. Infatti io vi lampo la roba e abbiglia loro. Io vi lo dico quando gli do Gruzzer, no? La pigliava bravo, al volo l'hai preso. Vabbè. Io sono intelligente, si vanno. Ehi. Gli do tre pezzi di Wurster, uno da babbo, uno da mamma e uno da Serafina, da quella del tabacchino. Tre pezzettini gliele do e ripiglia a loro. E di voi, perché lui quando finisce di mangiare che pulisce la ciotola vuole il premio. Ma dimmi tu. Cappa. Sono fatti così, i cani sono intelligentissimi, e adesso tu li hai abituato così e così vuole sempre, capito? Ehi, rubritendi, ti gioco dicendo, prima bene si bosa educatamente, no? Si siede e mi guarda, sì, e molte volte io non me ne accorgo, e allora mi abbaggia, cosa vuoi? Andrò per cui è posato, gli si vuole un premio. Vabbè, dura giottola perché controllami. Se non si è mangiato tutto non mi do. Ah, così è. E allora? No, perché fui Bucheramucci. L'altro giorno voleva andare a farsi un giro lui giù. E non voleva andare a fare la pipì. Cazzo, le bugie, dice, per andare a farsi un giro a sgranchirsi le gambe, mi. Ustinuso. Solo che io lo guardo dalla finestra e mi abbizzo se la fa la pipì. Se lui non la fa, non gliela do premio. Scappagato. Buona attualità che ti lascio adesso, io vado, che devo fare roba. E poi, non so se lo scendo io il cane, perché Elena la sa più vedo. Io già lo so dove portarlo lì, non lo sa. Cazzo, pure lui sa di bocca, un disudorio, vabbè già. Grazie per le quattro chiacchiere, al limite ci sentiamo alle prossime, tanto per i nodi sono una banda di morti, non entra nessuno, vabbè, adesso mi sto al computer, là, ci sentiamo alle prossime. Ciao Natale, ciao, ci sentiamo.